Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Come sa di sale lo pane altrui, scriveva il sommo poeta Dante, ma qui il problema è come mai c'è tutto questo sale nel mare. Ne parliamo fra poco, adesso i titoli e poi iniziamo. Il Mediterraneo diventa sempre più caldo e più salato e la domanda impossibile nasce spontanea. Da dove arriva il sale nel mare e perché i laghi non sono salati? Era come un robot, giocava a scacchi e incantò le platee di mezzo mondo. La storia del turco, automa del 1700. Prepariamoci a vivere in un mondo con meno risorse, meno energia, meno abbondanza, ma forse più felicità. I suggerimenti concreti del meteorologo Luca Mercalli per evitare la crisi energetica. Eccoti qua, Chiara, stiamo per parlare di mare in tutti i sensi. Sì, io facevo sì. Riferimento all'inizio alla domanda che ci hanno mandato gli ascoltatori, che però risolveremo più tardi. Sì. Ora invece ci tocca parlare del nostro mare nostrum, il mare Mediterraneo, del sale che lo riguarda, e tanta gente in questo momento si starà bagnando, si sarà bagnata, immersa in questo periodo. Ecco, che cosa succede nel Mediterraneo? Dagli anni 50 praticamente la salinità e la temperatura è sempre cresciuta in maniera quasi impercettibile forse alle persone, però ai ricercatori questo non sfugge. È per questo che qui con noi questa sera c'è la ricercatrice dell'Istituto di Scienze Marine del CNR di La Spezia, che è Catherine Schroeder. Buonasera Schroeder. Salve, buonasera. Buonasera. Ecco, noi l'abbiamo chiamata perché appunto dalle vostre ricerche, dai vostri rilevamenti in mare, avete in qualche modo rilevato che sia la temperatura che la salinità del nostro mare è in continuo aumento. E questo dovuto a che cosa? Insomma, ci racconti un po' che tipo di studi avete fatto, che cosa avete trovato? Sì, allora, noi ci occupiamo prevalentemente dello studio della variabilità su lunghe scale temporali, quindi annuali fino alle scale decennali, per studiare come variano i parametri fisici delle masse d'acqua nel Mediterraneo, in particolare appunto la temperatura e la salinità. E diciamo che mentre nella parte superficiale del mare questi parametri sono molto variabili perché sono soggetti a variazioni stagionali, nella parte profonda del mare, quindi al di sotto dei 1000-2000 metri, questi parametri sono molto molto stabili. Tuttavia, appunto grazie a questa loro stabilità e diciamo la riproducibilità della misura, riusciamo a captare delle variazioni anche minime. Mm-hmm. Sono magari, possono suonare poco importanti, ma in un'acqua che dovrebbe essere molto stabile, vedere delle variazioni di temperatura e di salinità di quell'entità di cui abbiamo visto noi è abbastanza sorprendente. E sono indici appunto di cambiamenti in realtà importanti. Esatto, infatti diciamo la parte profonda del mare è più quello che si può chiamare la memoria storica di quello che è avvenuto nei decenni precedenti. Cause principali possono essere una maggiore evaporazione sulla superficie del mare nel corso degli ultimi decenni, dovuti a riscaldamento, a cambiamenti climatici, e che aumentando diciamo l'evaporazione dell'acqua inducono un aumento della salinità, perché quando avviene l'evaporazione evapora solo l'acqua dolce mentre il sale rimane disciolta nell'acqua. E lo stesso dicasi per l'aumento di temperatura. Senta, perché se non sbaglio c'è un movimento lentissimo, no? Che di ricambio, insomma, cioè l'acqua che è profonda ritorna su. Sì. Che però è quasi di un secolo, una roba del genere, no? Diciamo sì, più o meno per il Mediterraneo il tempo di ricambio dell'acqua è di un centinaio di anni, che sono in realtà scale temporali corte se li si confrontano con quelle dell'oceano globale, dove si parla di 500 anche di migliaia di anni. Quindi in realtà il Mediterraneo è una sorta di oceano in miniatura, e che grazie a questo tempo di ricambio relativamente breve permette di utilizzarlo come laboratorio per gli studi climatici. Quindi si possono osservare dei cambiamenti nella scala temporale di una vita umana, quindi è più facile osservarli e documentarli. Quindi è un po' un laboratorio ideale. Esatto. Schroeder, possiamo prevedere ulteriori innalzamenti di temperatura o salinità nei prossimi anni nel nostro mare oppure no? Senz'altro potrebbero cambiare. Diciamo, quello che stiamo osservando è un trend continuo verso l'innalzamento di salinità e temperatura, e ovviamente l'entità di questa tendenza dipende un po' dai vari sottobacini del Mediterraneo, però in tutti i sottobacini questi due parametri nella parte profonda stanno aumentando, e finora non abbiamo osservato, diciamo, un'interruzione di questa tendenza, quindi per adesso si può dire che si va in quella direzione, che non c'è un'inversione di tendenza. Senta, c'è anche un ricambio, per quanto possa sembrare strano, attraverso lo stretto di Gibilterra, che appunto è veramente stretto, però qualcosa, no? Anche lì c'è un ricambio di acqua che arriva dall'oceano, però molto lungo. Sì, certamente. Lo stretto di Gibilterra è uno degli aspetti principali che determinano la circolazione del Mediterraneo, perché tramite esso il Mediterraneo riceve l'acqua dall'Atlantico, l'acqua superficiale dall'Atlantico, che è poco salata rispetto alle acque del Mediterraneo. Queste acque superficiali fanno tutto il giro del Mediterraneo fino alle coste più orientali, e in certe zone chiave, a causa dell'evaporazione, del raffreddamento, le acque sprofondano, formando l'acqua profonda mediterranea, e dopo un certo lasso di tempo queste acque più profonde riescono a fuoriuscire di nuovo attraverso lo stretto di Gibilterra, entrando nell'oceano Atlantico. Ecco, lei che ci va spesso, insomma, in che condizioni è il nostro mar Mediterraneo? Dobbiamo preoccuparci o è in buona salute in realtà? Sembrerebbe di no. Beh, diciamo, dal punto di vista fisico, quindi io parlo delle caratteristiche fisiche, non tanto di quelle biologiche, che senz'altro avranno un effetto, le componenti biologiche subiranno un effetto, stanno già subendo in termini di tropicalizzazione, per esempio, perché il fatto che il mare si sta scaldando fa sì che ci siano, diciamo, le specie animali o anche algali, tipiche di acque più calde, che si spostano sempre più verso nord all'interno del bacino mediterraneo, scacciando, diciamo, quelle che sono le specie più di acque fredde, che sono nella parte nord del bacino. Essendo però il bacino mediterraneo chiuso a nord, e a un certo punto in poi, da un certo punto in poi questa migrazione verso nord non potrà più andare oltre, e quindi il rischio è che gli habitat delle specie tipiche delle acque più fredde, diciamo, del Mediterraneo settentrionale vengano completamente occupati da specie più, diciamo, che amano più l'acqua calda e il clima un po' più tropicale. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E invece adesso alla domanda ci siamo, l'ascoltiamo? Sì, allora abbiamo ricevuto questa domanda dall'ascoltatore che, guarda caso, insomma, potendo approfittare della presenza qui della ricercatrice dell'Istituto di Scienze Marine del CNR della Spezia, Katrin Schroeder, ecco, possiamo chiedere a lei. Da dove viene tutto il cloruro di sodio che rende salata l'acqua del mare? E perché i laghi non sono salati? Maurizio. Ecco, allora, Katrin Schroeder, adesso ci deve aiutare lei. Beh, diciamo che il mare, appunto, è salato, come diceva il vostro ascoltatore, perché in esso è disciolto il cloruro di sodio, ma non solo il cloruro di sodio, vi sono disciolte molte altre sostanze, però, diciamo, il componente principale è proprio il cloruro di sodio. E il motivo per cui c'è tutto questo sale disciolto nel mare è che i fiumi che convogliano l'acqua verso il mare raccolgono, disciolgono dal terreno, dalle rocce dei loro bacini imbriferi i sali minerali, appunto, contenuti nelle rocce. Questo, diciamo, processo si è verificato per milioni e milioni di anni, apportando sempre maggiori quantità di sale verso il mare, e in aggiunta bisogna considerare che sul mare poi agisce l'evaporazione. L'evaporazione che fa evaporare solo l'acqua pura, l'acqua dolce, lasciando il sale disciolto nell'acqua. L'acqua evaporata poi ricade sui continenti, ricomincia il ciclo dell'acqua, riasporta sali minerali dalle rocce dei bacini imbriferi, dai terreni, e li riporta in mare. Quindi ogni anno, ad ogni ciclo idrologico, abbiamo asportazione di acqua dolce per via dell'evaporazione e importazione di acqua con una certa quantità di sali disciolti attraverso i fiumi. Quindi, Schroeder, scusi, non è che non c'è sale nei fiumi, nei laghi, è che ce n'è troppo poco. È molto poco rispetto è questo il motivo. Al mare. Infatti, il mare è un bacino, è una sorta di bacino di concentrazione. Certo. Infatti il nostro attento ascoltatore Maurizio poneva appunto la domanda per cui i laghi in effetti sono d'acqua dolce, e allora perché lì non si depositano certo. I sali? Innanzitutto bisogna considerare che la superficie dei laghi, la superficie a contatto con l'atmosfera è molto più ridotta rispetto alla superficie del mare a contatto con l'atmosfera, quindi l'evaporazione può agire su una potendo agire su una superficie molto maggiore, è molto più efficiente nel rimuovere acqua dolce da un bacino marino o oceanico piuttosto che da un lago. E poi è anche una questione di scale temporali, perché ovviamente i mari si sono formati in ere primordiali, mentre questo non si può dire per i laghi. I laghi generalmente sono più giovani, si formano, poi nelle varie ere geologiche si erodono. Cambiano, sono più dinamici, certo. Sì, sono più dinamici, non hanno l'età che ha l'oceano, quindi l'oceano ha avuto molto più tempo per accumulare sale, e si parla anche di volumi più grossi, però ci sono anche delle eccezioni, ad esempio il Mar Morto, che è la regione più salata che esista, in realtà è un lago, quindi ci sono i laghi salati. Questo perché in quella regione del Mar Morto l'evaporazione è particolarmente intensa. Va bene, grazie Schroeder, speriamo che anche Maurizio sia soddisfatto della risposta. Ok. Arrivederci, buonasera. Buonasera, grazie a voi. Ogni tanto un po' di suspense ci vuole, e quindi state lì, calmi, calme, che vedrete, fra poco capirete tutto. Ma noi incominciamo in un modo un po' strano. Non è strano che io vi presenti un ospite nei nostri studi, Giorgio Pressburger. Buonasera, Pressburger. Buonasera. Autore radiofonico, cinematografico, anche docente di storia dello spettacolo, e infatti in parte questa sua attività con quello che stiamo per dire c'entra. Le chiedo subito, Pressburger, com'era fatto il turco? Com'era fatto il turco? Beh, questa è una storia, intanto bisogna ripeterla, della fine del Settecento. Certo. Quando non esistevano computer, non esistevano automi, non esistevano tentativi di imitare il funzionamento del cervello umano, e in quel decennio, attorno al 780-90 e la fine del secolo, è comparso su ordine, su richiesta di una grande imperatrice, Maria Teresa d'Austria, uno strano automa, il turco, che giocava a scacchi e con qualunque avversario, ma sappiamo che durante la sua lunga carriera si è misurato con alcuni dei grandi uomini della terra come Napoleone. Ecco, questo turco era il prodigio di quel momento, di cui nessuno riusciva a capire il funzionamento. Ecco, ma le chiedevo proprio com'era fatto. C'era un manichino, no? Sì, c'era un manichino che stava seduto dietro a un tavolo. Sì. E sul tavolo c'era una scacchiera su cui qualcuno muoveva i pezzi dell'avversario, l'avversario del manichino, e stava seduto di fronte a lui, e il turco, questo automa, l'abbiamo chiamato manichino ma era un automa, muoveva le braccia, sollevava i pezzi, li spostava e giocava a scacchi. Ed era di dimensioni quasi umane, no? Il manichino. Quasi uguale, uguale a una figura umana, non imponente, ma aveva gli abiti di seta, turbante, per questo lo chiamavano il turco. Dunque, questo tavolo su cui poggiava la scacchiera in realtà era proprio una scrivania compatta con diversi cassetti. Sì, era abbastanza grande, non gigantesco, ma abbastanza grande, e un tavolo. Allora, parliamo di questo marchingegno, perché Tom Standage, che è un giornalista dell'Economist, ha scritto un bellissimo saggio intitolato Il Turco, che lei, Pressburger, ha recensito ed è edito da Nutrimenti, e io ve lo consiglio perché è veramente un giallo. Oh, dunque, è una bellissima storia di tecnologia e spettacolo. Noi adesso non vi riveliamo assolutamente come stavano esattamente le cose, però, Pressburger, queste performance, no, del turco, che riempiva le platee di tutta Europa, poi finì anche negli Stati Uniti, erano accompagnati da un personaggio che, come dire, era lui il deus ex machina di questi spettacoli, che era abilissimo. Sì, c'era un commentatore che sedeva sul palcoscenico, perché le partite si svolgevano su un palcoscenico e gli spettatori erano in platea, come anche oggi si svolgono i tornei di scacchi, no? Sì. E che commentava quello che stava accadendo. Oggi tutto viene mostrato su display elettronici, ma ancora 40-50 anni fa c'erano grandi scacchiere appese in soffitta nei teatri, sì. E c'erano dei ragazzini che, come gli scacchisti, i giocatori muovevano sui tavoli i loro pezzi, loro li muovevano su questa grande scacchiera verticale, facendoli vedere al pubblico. Anche io ho fatto quel mestiere. Ma lì probabilmente il pubblico era in parte interessato a vedere come andava la partita, a volte il turco vinceva, ma a volte anche perdeva, ma la grande incognita era come facesse a muovere. Come facesse, nessuno riusciva a capire, perché avere l'idea di un computer allora era impossibile. Beh, non c'era nemmeno nella testa della gente. No, certo. No, assolutamente. Ma come questo meccanismo fosse inanimato e in grado di giocare, questo non riuscivo a capirlo nessuno, ed è stato un vero segreto, non solo, diciamo, un numero da spettacolo, ma un vero enigma per anche studiosi, uomini intelligenti, eccetera. Per esempio anche Franklin, no? Vide questo spettacolo, Beniamino, sì. Franklin. Perché questa scrivania sulla quale lui, sulla quale si ergeva il turco, poi era apribile, quindi si potevano vedere dei meccanismi interni? Sì, si vedevano ruote dentate, vari altri pezzi di meccanismi, tutto questo, appunto, come si metteva in moto, come si animava. Tra l'altro il turco si vedeva solo dal busto in su, seduto dietro la scrivania, però si vedevano tutti questi meccanismi e si potevano guardare da vicino, e si muovevano, e se ne sentiva anche vagamente il rumore. Diciamo. Anche dei rumori meccanici. Sì. Io non so se, non riveliamo assolutamente tutto il meccanismo, forse possiamo dire che noi questo marchingegno qui non ce l'abbiamo più, abbiamo tante cose che hanno 200 anni di vita, sì. Quindi però questo non riveliamo. È andato distrutto, cioè nell'incuria dei tempi, eccetera. Non lo dica. Sì. È vero, è andato distrutto, ma non diciamo esattamente come. Non è arrivato a noi, però a un certo momento si capì. Sì. Qual era il trucco. Sì. Ripeto allora il titolo del libro, Tom Standage l'autore, Il Turco, edito da Nutrimenti. In appendice di questo libro c'è un saggio, pensate, di Edgar Allan Poe, il quale fece un'analisi molto attenta del marchingegno e scrisse, da bravo, come dire, esperto di inchieste, scrisse questo saggio cercando di, come dire, far capire che cosa poteva esserci dietro, soprattutto che cosa non poteva funzionare come veniva venduta, no? Sì, e lo trovate poi faceva tournée. Va bene, comunque, buona lettura a quelli che non hanno letto il libro e che vogliono leggerlo. Grazie, arrivederci, Pressburger. Grazie. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Adesso sentirete Alberto Agliotti della redazione di Möbius che legge una lettera a un sindaco. La lettera l'ha scritta Luca Mercalli, che ha pure scritto un libro però. il tema del saggio: vivere morigerati e più felici. Si può, dice lui. Ascoltate. Caro sindaco, oggi abbiamo una terra con 7 miliardi di individui, dilaniati da disparità intollerabili, che con ogni loro bisogno e ogni loro scelta di consumo incidono sul clima, sull'acqua, sulla salute, sulla produzione di scorie e rifiuti, sulla disponibilità di cibo e materie prime, per se stessi e per tutte le generazioni future. Abbiamo una tecnologia che non è mai stata così potente, ma è un'arma a doppio taglio. Caro sindaco, amministrare oggi è una responsabilità enorme e sulle tue spalle grava non solo il giudizio dei tuoi elettori, non sempre informati, non sempre onesti, che vogliono solo risposte concrete per oggi, ma grava anche il giudizio delle generazioni più giovani e di quelle ancora a venire. Prova allora a uscire dagli schemi, dal conformismo ideologico, dalle soluzioni semplificate, dal piccolo grande interesse. Prova a pensare un progetto che parta dalle esigenze dei cittadini e coinvolga i centri di ricerca. Prova a pensare un progetto che metta la ricchezza sociale prima della ricchezza economica. Tanti auguri, caro sindaco, siamo tutti con te, perché il sindaco amministra con i cittadini. Questo è un estratto della lettera al sindaco con la quale si apre l'ultimo libro di Luca Mercalli, scienziato del clima e presidente della Società Meteorologica Italiana. Buonasera Mercalli. Buonasera a voi. Allora prepariamoci al titolo del libro, edizioni Chiare Lettere, prepariamoci a vivere in un mondo con meno risorse, meno energia, meno abbondanza. Stiamo un po' sfruttando, stiamo spremendo oltre misura questo che è l'unico pianeta che abbiamo. Ma direi che questi sono ormai dei dati che sono noti da decenni. Forse questo è venuto un po' il momento di prendere consapevolezza che se adesso non si agisce, e abbiamo già perso molto tempo, la nostra qualità della vita, invece di continuare a crescere come ha fatto nel periodo del boom economico e fino ad arrivare alle soglie di questo nuovo millennio, potrebbe invece cominciare forzatamente a decrescere. Decrescere perché ce lo impongono le leggi fisiche, ce lo impone questo abuso delle risorse del pianeta e l'accumulo delle scorie di ogni genere che in qualche caso cominciano anche nei paesi industrializzati a far calare i vantaggi rispetto agli svantaggi del nostro modo di concepire l'uso delle risorse planetarie o forse, se vogliamo, con qualcosa di più visibile a tutti, con il nostro concetto di un'economia fondata esclusivamente sulla crescita infinita. Crescita poi non si sa bene di che cosa. Ogni giorno noi sentiamo, anche in questo periodo di profonda crisi economica, inneggiare a un'unica soluzione. Bisogna far ripartire la crescita. La crescita di che cosa? Dei consumi. Ma i consumi che cosa sono? Sono una miniera che si svuota e una discarica che si riempie. In mezzo ci dovrebbe anche essere il benessere dell'umanità, dei singoli, ma sappiamo che anche qui, oltre ad essere mal distribuito, ci sono un po' delle soglie di benessere. Ci sono prima di tutto i bisogni e questi sono fondamentali, andrebbero soddisfatti per tutte le persone che abitano su questa terra, e non è così. C'è chi non riesce nemmeno a mettere insieme il pranzo e condizioni di vita che sono intollerabili. Dall'altra parte ci sono invece forse i desideri che sono infiniti e nei paesi super industrializzati sappiamo che ormai i bisogni sono stati coperti da tempo, tutte le persone mangiano, anzi mangiano fin troppo e c'è forse il problema dell'obesità, della perdita della buona salute a causa del troppo. Si sono soddisfatti i bisogni fondamentali di avere una casa, ma forse ne abbiamo anche due, tre, quattro, di avere la mobilità, e prima era avere una piccola automobile, adesso se ne hanno anche due, tre, quattro, e avanti così con forse, e qui entra in gioco anche un aspetto più filosofico, capire dove vogliamo arrivare. E soprattutto pensare che questo modello del mondo occidentale, che attualmente soddisfa gli appetiti di circa 1 miliardo di persone, se venisse esteso anche agli altri 6 miliardi del pianeta, probabilmente metterebbe in crisi, nel giro di pochi decenni, proprio la sostenibilità fisica dell'ambiente nel quale viviamo. Ecco che allora urge prendere in mano questi problemi in maniera molto laica e oggettiva e farci un modello di futuro. Che cosa vogliamo? Cosa vogliamo se vogliamo continuare a crescere, ma poi di colpo cominciare ad avere tutti i danni che questa attività provoca? E quindi essere soggetti poi all'evoluzione che prenderanno i sistemi naturali, che possono poi anche farci del bel male, perché quando parliamo di cambiamenti climatici, di esaurimento per esempio degli stock ittici negli oceani, di deforestazione. Sì, abbiamo parlato a inizio puntata ad esempio del riscaldamento del Mediterraneo e dell'aumento della salinità del Mediterraneo. Certo, sono poi tutti dei sistemi giganteschi che una volta che si mettono in movimento non è che uno dice ah, adesso mi sono pentito, scusate, ho sbagliato, ritorniamo come prima. No, i sistemi fisici una volta che si mettono in movimento possono cambiare il corso degli eventi anche per millenni e quindi poi l'umanità a questo punto ne farebbe le spese in maniera drammatica. Allora il prepariamoci vuol dire oggi fare questo bilancio di ciò che abbiamo e di ciò che vorremmo della nostra vita, quindi sia un bilancio filosofico, sia un bilancio materiale, usare bene la conoscenza e le nuove tecnologie, perché sicuramente non dobbiamo guardare al passato, tornare indietro, non esiste un Eldorado, ah com'era bello una volta, no, dobbiamo andare avanti, ma dobbiamo scegliere come andare avanti, usare ciò che di buono oggi la modernità ci ha dato, ma forse scartare una gran parte di zavorra. Lei nel libro, che ci tengo a dirlo, non trasmette né pessimismo né catastrofismo, forse non c'è neanche tempo né il caso di essere pessimisti di fronte a questi scenari. Quindi dopo una presa di coscienza della situazione, lei suggerisce un piano B, cioè le cose che lei ha fatto in prima persona per ovviare alla crisi. Certo, cioè dopo aver nella prima parte del libro elencato le criticità, io sono passato a chiedermi che cosa ciascuno di noi può fare. E ho cominciato mettendo in pratica di persona, perché questo è il modo anche più efficace di trasmettere a un lettore un'esperienza, perché solo fare un pio elenco di cose buone da fare sono capaci tutti, e ce ne sono decine di libri così. Invece io ho voluto in questi anni mettere in pratica alcune cose peraltro assolutamente ordinarie che in tanti paesi del mondo si fanno già. Sto parlando del risparmio energetico all'interno della propria abitazione, investire dei soldi invece che nel cambiare l'automobile per farla vedere agli amici al bar, nel mettere invece i pannelli solari sul tetto, fare l'isolamento termico dei muri, delle finestre. Ho la fortuna di avere un piccolo pezzetto di terra, sto parlando di meno di 100 metri quadrati, e invece di fare giardino inglese da mostrare di nuovo a chi passa per la strada, ci ho piantato i pomodori. Ecco, insomma, parto da queste considerazioni che poi uno può adattare alla propria situazione di vita per far vedere come la propria impronta ecologica, se così vogliamo chiamarla, sul territorio si può anche più che dimezzare. Certo, non è il meglio, è solo un inizio, perché questa strada è tutta da costruire e ha varie valenze, cioè io non la faccio soltanto con la visione dell'etica ambientale, cioè sono diventato virtuoso perché adesso così emetto meno CO2, produco meno rifiuti. No, il senso del prepariamoci è anche nel fatto che inizia un periodo di vacche magre e allora queste operazioni che facciamo oggi non solo servono per alleviare la nostra pressione sull'ambiente, ma servono anche per investire bene le risorse ancora disponibili per non avere un forte calo della qualità della vita negli anni futuri. Quindi prepariamoci oggi, perché domani io comunque la casa calda ce l'avrò ancora grazie ai pannelli solari. Se invece qualcuno chiuderà il rubinetto del gasdotto, se non l'hai fatto in tempo starai al freddo. Lei parla di resilienza, cioè se il colpo deve arrivare almeno cerchiamo di essere pronti a riceverlo, a contenerne gli effetti. È la prima volta nella storia dell'umanità che noi oggi, grazie alla conoscenza scientifica, abbiamo la possibilità di farci degli scenari credibili di cui possiamo anche stimare il livello di probabilità. Quindi usiamola questa conoscenza, invece di farci sorprendere, come sempre la storia ha fatto in passato, da eventi di cui non c'erano le possibilità di avere una visione, oggi, pur sbagliando, perché prevedere il futuro è sempre difficile, però abbiamo delle linee guida che ci dicono attenzione, qui ci sono varie trappole, e allora la resilienza si prepara. Quando si sanno quali trappole ci sono davanti a noi, anche se non si conosce bene il dove e il quando, ci si può attrezzare per evitare di finirci dentro. E la resilienza è quindi la possibilità di un sistema a non collassare allorché ci sono degli shock. Gli shock arriveranno, questo purtroppo è inevitabile, lo sappiamo, ma se ci prepariamo saranno meno cattivi. E per prepararci non dobbiamo neanche fare gli eroi che salvano il pianeta, ma semplicemente ognuno fare, adattando alla sua realtà, dei piccoli gesti come quelli che lei elencava prima, piccoli o non tanto piccoli, ma insomma delle scelte che certo, permettono... Io infatti ho voluto proprio raccontare in prima persona le mie scelte di vita, anche dimostrando che siccome la mia attività di ricerca, di informazione, di divulgazione è ben nota e quindi non sono certamente un eremita che fa una vita particolare, ascetica. Quindi facendo una vita di tutti i giorni voglio anche dimostrare che è possibile questa volta. Io vivo normalmente ma con questo modello in testa, cioè ogni mio gesto ormai automaticamente viene inserito in questo contesto e mi domando, ma quello che sto facendo ha un senso oppure no? Sta chiedendo troppo rispetto a ciò che dà? Posso darlo, posso cambiarlo, posso farlo in modo diverso, non farlo? Ecco, queste sono piccole domande che devono, secondo me, albergare nel cervello ormai di ogni cittadino del XXI secolo. Ecco, allora io dico agli ascoltatori che oltre alla lettera al sindaco, in fondo al libro trovano anche un programma elettorale che Luca Mercalli sarebbe disposto a votare se qualche politico lo proponesse. Salutiamo e ringraziamo Luca Mercalli e che dire, prepariamoci. D'accordo, e un saluto a tutti voi. Buonasera. Il diametro è 45 metri, la profondità è 16, si trova nel deserto e Google l'ha ovviamente fotografato, lo sappiamo, no? Ormai Google Earth, Google Terra l'ha fotografato tutto questo nostro pianeta, si può dire metro per metro, e così può accadere che un ricercatore del Museo di Storia Naturale di Milano, sorvolando il pianeta con un computer collegato a Google, ecco, può accadere che individui quella roba lì, 45 per 16 metri, un cratere generato da un meteorite, un cratere di impatto, si dice. Cratere che stava in pieno deserto in Egitto, zona meridionale del paese. Vincenzo De Michele è lui, ricercatore, come lo ha visto, si è subito insospettito perché la forma non poteva essere quella di un consueto buco nel terreno, si è formata una piccola spedizione italo-egiziana e sono andati sul posto. Perfetto, era così. Cratere da meteorite, quelli piccoli sono rarissimi, ne abbiamo 15 individuati in tutto il pianeta, hanno analizzato i resti del meteorite classificandolo come ataxite ricca in nichel. Doveva essere un bel sassone di circa 1,30 m quando si è arrivato al suolo, e qui si può anche in questi casi calcolare la velocità. Sono usciti 3,5 km al secondo, ovvero 13.000 km orari. Ci pensate, guardate che un proiettile di fucile di precisione viaggia intorno ai 1.000, questo era largo quasi 1,5 m e viaggiava 13 volte più veloce. La rivista Science ha dedicato alla scoperta una pagina meritata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come se non ne raccogliessimo già abbastanza di bizzarre figure anche a livello internazionale, qualche settimana fa il nostro paese si è distinto per un'immane sciocchezza che era questo pasto a base di carne di orso. Perché mangiare l'orso? Perché alcuni ritenevano, e anzi ritengono con questo gesto, insomma, di protestare per il fatto che gli orsi fanno qualche disastro nell'ambiente in cui vivono, come se avessimo milioni di orsi, invece sono pochissimi. Di questo vi stiamo per parlare, non tanto per ricordare quella vicenda, ma perché vogliamo discutere di mangiare carne di carnivori. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. E abbiamo già un ospite con noi. Abbiamo Luigi Boitani, che è un noto esperto di ecologia e fauna selvatica. Buonasera. Buonasera Boitani. Ecco, c'è stato questo tentativo di mangiare carne d'orso, che era carne importata dalla Slovenia, che per fortuna non può essere mangiata perché mancava della certificazione richiesta per la commercializzazione di animali o loro parti di animali protetti. Federico, chissà che cosa si sono persi queste persone che volevano mangiare la carne d'orso. Cerchiamo di capirlo, se proprio è necessario adesso. Ci dica qualcosa. Ma il tentativo è finito male perché questa carne non aveva giustamente i certificati corretti previsti dalla Convenzione di Washington, quella convenzione che tutti conoscono come CITES, che appunto regola il commercio delle specie minacciate. Di per sé, tolto dai suoi connotati etici, mangiare carne di orso non è una cosa disdicevole se a qualcuno piace una schifezza del genere. La carne di orso non è molto buona. Ma perché non è molto buona? In fondo ci sono un sacco di animali che noi non mangiamo, in realtà non mangiamo i carnivori in particolare. Io non ho mai sentito qualcuno dire che si è mangiato un arrosto di leone o di tigre. No. Ma no, perché i carnivori sono cattivi da mangiare, sono animali che hanno una muscolatura molto asciutta, senza un filo di grasso, sono muscolature dure da cucinare. Io ho provato una volta a mangiare un lupo che abbiamo ritrovato morto, ucciso da pochissimo tempo, quindi era ancora fresco, e così, tanto per curiosità professionale, visto che mi occupo di ricerca e conservazione di lupi, ho provato, ero in America, non ero in Italia comunque, ma era una schifezza incredibile, insomma, cioè, dopo un boccone o due abbiamo mollato lì. C'è qualcuno in Italia, tradizioni antichissime, che cucinava la volpe, per esempio, ma attraverso un procedimento lunghissimo di frollatura, diciamo così, di copertura del sapore vero con tutta una serie di spezie, per cui alla fine uno poteva dire che era volpe, ma insomma poteva essere un pezzo di gomma qualsiasi. Sono anche tradizioni che sono nate, diciamo, quando c'era un bisogno di proteine e una disponibilità di proteine molto inferiore a quella di oggi. Assolutamente vero, assolutamente. Insomma, questi orsi però sono davvero un problema, ma no, assolutamente. Ma gli orsi dell'area, diciamo così, del Trentino, questa popolazione che è stata reintrodotta con esemplari provenienti dalla Slovenia, si sta lentamente allargando, ma sono ancora pochissimi, insomma, sono poche decine che si stanno lentamente aumentando e allargando sul territorio. Certo, prima o poi uno dovrà decidere quanti orsi si vogliono tenere sul territorio italiano, ma siamo ancora molto molto lontani dall'aprire questa discussione. La popolazione deve ancora crescere e arrivare ad un numero che la metta al riparo da possibili minacce di estinzione. E poi comunque guardiamo la realtà, questi orsi fanno sì qualche danno ogni tanto, una pecora può partire, o qualche arnia di allevatori, ma insomma sono danni che si contano veramente in poche migliaia di euro, cioè è inutile costruire una demagogia su una cosa del genere, perché se la facciamo su questo, non so, dovremmo chiudere le strade semplicemente perché ci stanno 30 morti ogni weekend, insomma qual è il discorso di fondo? Io trovo che ci sia una demagogia incredibile. Torniamo ancora alla carne degli animali selvatici, perché uno dei problemi dei carnivori, della carne di carnivoro, che non solo è coriacea, incredibilmente coriacea, ma ha un cattivo odore. Ma ha un odore spesso molto molto forte, perché i carnivori selvatici hanno tutti quanti diciamo delle potenti ghiandole, chiamiamole così, di marcatura del territorio, e questo odore è molto molto pervasivo. È quell'odore che peraltro noi abbiamo tolto ai carnivori selvatici quando li abbiamo addomesticati. Il cane non puzza proprio perché è stata attraverso la domesticazione c'è una atrofizzazione delle ghiandole anali, che sono quelle che il lupo usa normalmente per marcare le sue feci e marcare il territorio. Ecco, che stare vicino a un lupo sarebbe insopportabile, dopo mezz'ora si scappa via per la puzza, stare vicino a un cane invece è un piacere. Ecco, il passaggio tra orso e carnivori, lo ricordo, non l'abbiamo fatto perché l'orso sia carnivoro, ma perché l'orso mangia anche carne. Certamente. Comunque, da un punto di vista sistematico, l'orso è un carnivoro, che poi dopo si adatta a mangiare un po' di tutto, però è un vero carnivoro. Ecco, tutta questa vicenda dell'orso ha un precedente che ha avuto meno eco forse, che riguarda proprio i lupi in Piemonte. Ah sì, questa è un'altra delle demagogie strepitose che si è inventato lo stesso partito politico che ha voluto inventare la vicenda dell'orso, tanto per non far nomi. E in tutto il Piemonte ci sta una popolazione di lupi che si è lentamente espansa attraverso un processo naturale di ricolonizzazione che viene dall'Appennino, e questi lupi italiani hanno ricolonizzato anche gran parte della Francia sud orientale. I francesi non sono contenti, però hanno dovuto fare buon viso a cattivo gioco, e dalla parte italiana i lupi sono pochi, sono centinaio, cioè non di più. E sono stati studiati sin dall'inizio molto bene dalla regione Piemonte. Noi sappiamo molto bene dove sono i branchi, quanti sono gli animali e così via, e sappiamo anche molto bene quanti sono i danni che fanno questi lupi. In tutto il 2010 il totale dei danni fatti da questi lupi è 68.000 euro, cioè una cifra irrisoria. Ridicola, sì. ridicola che veramente scompare nel bilancio di qualsiasi istituzione, anche di un piccolo comune si potrebbe dire, eppure nonostante questo la demagogia che è nata su questa storia è incredibile e per il partito al potere adesso in Piemonte i lupi sono il problema più importante da risolvere per salvare la zootecnia del Piemonte che sta estinguendosi a causa dei lupi e così via. Il problema qual è? Che la zootecnia in tutta Europa, ma in particolare nelle zone alpine, soffre di problemi strutturali profondissimi e sta in estinzione per conto suo, ma per tanti motivi, perché cambiano gli stili di vita, per i regolamenti sulle produzioni delle carni, del latte e così via, e il lupo non è altro che un'inezia in tutto questo processo. Però è molto più comodo buttare la colpa a una povera bestia che non c'entra niente, piuttosto che affrontare i problemi strutturali veri. Se ci facciamo un teleton di 6 ore chiedendo alla gente di dare mezzo euro, credo che recuperiamo fondi per pagare le galline per 2 secoli, no? Credo che sia assolutamente certo. Ma difatti anche molti allevatori in Piemonte sono stati veramente perplessi da tutta questa campagna antilupo, perché si rendono conto che non ha senso. Peraltro la Regione Piemonte aveva messo in piedi un sistema molto carino, che è ancora in piedi, di premi al pascolo virtuoso, cioè dà dei premi in più a quegli allevatori che gestiscono i loro pascoli in una maniera virtuosa, cioè compatibile anche con la presenza del lupo. Molti allevatori hanno apprezzato moltissimo questa azione della Regione Piemonte, che è veramente stata illuminata e andata avanti ormai da 10 anni e funziona molto bene. In tutta Europa sono rarissime le regioni e le aree dove sappiamo così bene quanti lupi esistono, dove stanno, i danni che fanno e così via. Dobbiamo anche mettere in conto, diciamo, quando valutiamo i danni del lupo, che invece un ecosistema sano con tutti gli animali porta delle entrate in termini di turismo, ad esempio. Grazie Boitani e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ciao Barbara, alla prossima. Ciao Federico, grazie a tutti. Duemilacinquecento anni fa, nel sud dell'Italia, in quella che oggi è la Calabria, e più in particolare nella città di Crotone, qualcuno, un personaggio forse mitologico, ma forse esistito, che aveva nome Pitagora da Samo, perché in origine proveniva da Samo, si trovò a fare una scoperta che è la scoperta costitutiva di quella che oggi noi chiamiamo scienza. Allora sfumiamo la voce di Pier Giorgio Di Freddi sul DVD, che naturalmente non sarà solo voce ma sarà anche video, e invece incontriamo la voce vera di Di Freddi, perché è qui con noi questa sera. Buonasera Di Freddi. Buonasera a voi. Senta, ma non riusciremo mai a sapere se Pitagora era un personaggio reale o no, non ce la faremo, c'è qualche modo per capirlo, non credo. No, ma soprattutto non ci importa niente, perché non essendo un profeta di una religione, no? La cosa importante sono i risultati che a lui vengono attribuiti e probabilmente ottenuti, se non da lui, ammesso che non sia esistito, alla scuola che prende il suo nome, cioè dalla scuola pitagorica. Il teorema di Pitagora c'è e questa è la cosa importante, che poi ci sia anche Pitagora, non importa poi molto. Però è un personaggio talmente caro fin dall'infanzia, no? Il teorema di Pitagora, insomma, è qualcosa che hanno in mente tutti, che insomma dispiacerebbe pensare che non ci fosse stato. Lei pensa che ci sia stato o no? Io non sono credente, in particolare nemmeno in questo, ma è la stessa cosa di Omero. Omero era una donna, erano 100 ovati messi insieme, eccetera, ma l'importante anche lì sono l'Iliade e la sostanza. Senta, questa collana è veramente vasta, Beautiful Minds, incomincia con Pitagora, ma ci sono veramente tanti altri personaggi descritti e raccontati da personaggi altrettanto autorevoli. Ci cita qualche titolo? Ci sono veramente dei gioielli, lo dico non perché l'abbiamo fatto noi, ma perché siamo riusciti con grande onore anche ad avere alcuni di questi personaggi, per esempio Watson. Che è uno degli scienziati più famosi del Novecento, uno dei due scopritori insieme a Crick della struttura doppia elica del DNA, il quale ci ha fatto addirittura 2 DVD, perché in uno ha raccontato proprio la scoperta di questa struttura e nell'altro invece, poiché lui poi in seguito ha diretto il progetto Genoma, come le cose sono andate avanti nella biologia, ma ce ne sono anche altri, per esempio esempio John Nash, famosissimo perché è protagonista del film A Beautiful Mind, che ha raccontato invece i suoi risultati e più in generale la teoria dei giochi. Ma poi abbiamo anche altri premi Nobel, Glashow per esempio, uno dei grandi unificatori delle forze, la forza elettrodebole con l'elettromagnetismo, e lui ci ha raccontato invece di nuovo in due DVD la storia della fisica, della meccanica quantistica eccetera. Croto, che è un grande chimico noto per aver scoperto una molecola che si chiama C60 fatta come il pallone di calcio, quindi in Italia dovrebbe essere naturalmente osannato più o meno come i calciatori e così via, quindi sono veramente beautiful minds nel senso letterale, anche perché non si parla solo delle beautiful minds, ma spesso sono loro a parlare di ciò che hanno fatto. Bene, è una collana quindi che va raccolta credo tutta, perché è un viaggio completo in alcuni dei fondamentali della scienza nella sua storia anche di scienza contemporanea, e incomincerà con Pitagora. Grazie Di Freddi. Grazie a voi e buon ascolto. Allora vi ricordo che la prima uscita è quella di Pier Giorgio Di Freddi su Pitagora il 26 agosto, poi Giulio Giorello il 2 settembre su Archimede e Margherita Hack, Tolomeo e Copernico dalle stelle alla misura dell'uomo il 9 settembre, poi tutti gli altri, insomma sono 20 DVD. Siete in vacanza fra pinne, maschere oppure scarponcini leggeri da camminata in montagna? Spero che la giornata sia stata gradevole, anche per chi lavora mi auguro sia stato un giorno di moderato lavoro estivo. Noi ci sentiamo fra 7 giorni e sarà quasi Ferragosto. Buona settimana a tutti e a tutte.